quinto comandamento ha come oggetto fondamentale la tutela della vita fisica, ecco, ma non solo di questa, perché subito è necessario citare il Vangelo, laddove Gesù ci ricorda quelle memorabili parole del discorso della montagna, dove egli stesso dice: avete inteso che fui detto agli antichi non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ecco, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio, chi poi dice il fratello stupido sarà sottoposto al Sinedrio, chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna, facendoci subito comprendere come sia vero il proverbio popolare che fa più vittime la lingua che la spada, quindi che la vita che è tutelata da questo comandamento non è soltanto quella fisica, ma anche quella interiore, quella morale, cioè l'ingiuria è un peccato, non è soltanto un reato. L'ingiuria grave, chi dice al fratello pazzo, quindi è un'espressione che indica proprio il disprezzo della persona, è addirittura peccato mortale, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Ecco. E sapete questo discorso, questo è uno stralcio del famoso discorso della montagna, dal capitolo 5 del Vangelo di San Matteo, termina con un monito, no? Dice: se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello, sta attenti, ce l'ha con te, non che tu ce l'hai con lui, lascia l'offerta davanti all'altare e vatti prima a riconciliare con tuo fratello. Perché dice questo? Perché se tuo fratello ce l'ha con te, vuol dire che tu gli hai fatto qualcosa, cioè ce l'ha con te forse perché gli hai detto stupido, forse perché ti sei arrabbiato con lui, forse perché l'hai offeso. Tenete presente che il Vangelo non ci obbliga soltanto a perdonare, ma anche a riconciliarci, cioè a sanare per quanto possiamo le situazioni di inimicizia che noi stessi abbiamo creato. Quindi se abbiamo offeso qualcuno, dobbiamo riparare, dobbiamo chiedere scusa e dobbiamo chiedere perdono. Quindi questo come ulteriore elemento introduttorio che ci fa comprendere come l'oggetto del comandamento è la vita non solo fisico-biologica, che è comunque l'oggetto primario, ma anche, se non soprattutto, quella morale, per cui a nessuno è lecito offendere o calpestare la dignità altrui, né avere spirito litigioso. Sapete che l'Italia fino a qualche tempo fa, in base alle mie informazioni, c'era il primato del paese più litigioso sicuramente d'Europa, cioè con il maggior numero di cause civili. Cioè, se io avessi fatto il lavoro che facevo prima di diventare prete, sarei diventato miliardario, sarei diventato, no? come alcuni dei miei ex colleghi, insomma, stanno tutti a fa causa, anche per questioni proprio di lana caprina. Io a volte vedo la gente oggi un pochino cattivella, liti condominiali, se qualcuno si azzarda ad aprire, a mettere una piccola toppa nel muro di casa, 5 minuti dopo il vicino ha già chiamato i vigili urbani, c'è il permesso, non c'è il permesso, ti fermano i lavori. La gente oggi ha questo spirito, almeno dalle mie parti, questi fenomeni sono abbastanza diffusi, brutti, ecco, cattivi. Non vorrei che qualcuno di questi, cari fratelli e sorelle, come ahimè talora disgraziatamente capita, la domenica proprio tranquillamente a farsi la comunione, insomma, no? Questi passi del Vangelo sono abbastanza obsoleti, abbastanza dimenticati. Quanta gente sta in lite, non parla più col fratello o con la sorella per questioni ereditarie, altro che da dirgli stupido, non ci parla più, altro che amare i vostri nemici, in questo non parla più col fratello o con la sorella per un appartamento che si devono dividere o per cose di questo genere. Nessuno sta dicendo che queste non siano cose importanti, ecco, ma voi capite che al di sopra di tutto, in un caso di questo genere, c'è il rapporto tra un familiare, e se tu in nome di una tua presunta giustizia, perché dopo cominci a dire ma non è giusto, è principio questo di qua, non parli più con tuo fratello, io prima di andare a fare la comunione ci penserei, no, due volte, 50 volte. Perché capite, noi andiamo a fare, quando andiamo a fare la comunione, andiamo a metterci appunto in comunione, cioè a stare in comunione con colui che è morto in croce per quelli che lo odiavano, per quelli che erano cattivi, ha dato la vita, ha perdonato. Allora, tu che non parli con tuo fratello, avessi anche tutte le ragioni di questo mondo, vai e ricevi Gesù Cristo? Ecco, Gesù lo dice nel Vangelo, no? Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, sempre in quel passo che vi ho citato, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice alla guardia tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Cioè, esorta, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario. Quindi quando c'è un problema o una lite di questo genere, cerca sempre una soluzione pacifica, cerca sempre di, si diceva in termini tecnici quando io studiavo, di fare una transazione, quindi di fare una composizione pacifica della lite, come è caratteristica dei figli di Dio. Ecco, quindi attenzione, quindi oggetto del comandamento possiamo a questo punto dire che in prima battuta è la vita umana, però intesa in senso largo, quindi intendendo con ciò anzitutto la vita fisica dell'uomo, ma comprendendo anche la tutela della dignità e dell'onorabilità della persona umana da ingiuste e indebite aggressioni fisiche, perché esistono anche le percosse, come vedremo, oppure verbali. Ecco. Infine, un'altra precisazione, diciamo così, per come dire, per completare, diciamo, il quadro introduttorio di questo quinto comandamento. Allora, oggi spesse volte viene chiamata in causa la cosiddetta scienza per dire un sacco di sciocchezze, ecco, cioè, mi spiego. Non c'è tempo adesso qui per fare tutto quanto un ampio discorso sulla pretesa scientificità e incontrovertibilità della scienza galileiana. Eventualmente, quando finiti i 10 comandamenti, ci si potrebbe fare un 2-3 conversazioni sicuramente su questo tema. Comunque, facciamo finta per ora, concediamo che la scienza galileiana sia tutta quella grande panacea che ci vogliono far credere da 2-3 secoli a questa parte, d'accordo? Non è così, ma facciamo finta che lo sia, lo concediamo. Ora, ammesso che questa scienza sia la panacea dell'universo, perché tu possa, da un punto di vista scientifico, definire scienza, dal punto di vista galileiano, una determinata legge, è necessario che questa legge sia sperimentabile, verificabile e riproducibile e tassativamente dimostrata. Capite? Non è tale una teoria scientifica fondata su ipotesi che possono anche avere il crisma di una certa probabilità se i dati vengono letti dentro un certo ambito e sotto un certo punto di vista, ma che non hanno nulla di oggettivo e di incontrovertibile. Quali sono le idee di questo genere? Per esempio, la teoria dell'evoluzione è così. Infatti si chiama teoria dell'evoluzione, non è e non sarà mai scienza in senso stretto, anche se tale la vogliono far passare, perché la teoria dell'evoluzione, in cui, vi ripeto, adesso non entriamo nel merito, non è altro che l'interpretazione di una serie di dati e di reperti fatta in un certo modo, che presenta però vari elementi lacunosi e vari passaggi che sfuggono completamente alla possibilità di prove e dimostrazioni. Uno fra tutti, il famoso anello mancante, chi di voi ha studiato questa cosa a scuola, che rappresenta, diciamo, lo scacco matto degli evoluzionisti, cioè come si passa dall'ultima forma di animale evoluto alla razza umana che comunque pensa e parla. Non lo sanno, quindi spiegano questa cosa in maniera completamente arbitraria, irrazionale. C'è un anello mancante che non conosciamo, se non lo conosci tu non sei scienza. Questo anello mancante tra l'altro non lo troveranno mai, d'accordo? Perché noi parliamo semplicemente perché, come ci dice la fede, che è assolutamente certa e è completamente al di sopra di queste verità pseudoscientifiche, l'anima ce l'ha creata al Padre Eterno, d'accordo? Per cui uno scimmione, anche se campasse 5.000 anni con dentro una famiglia umana e lo metti a tavola con le forchette posate in mano, gli provi a parlare, non parlerà mai, d'accordo? Comunque, chiuso parentesi. Oggi Ci sono tutta quanta una serie di teorie stramparatissime, ammantate però come grandi scoperte scientifiche, circa l'inizio e la fine della vita umana, che vogliono imporsi dinanzi alla pubblica opinione, alla pubblica attenzione, relegando chiunque la pensi diversamente come pseudo-retaggi anacronistici di vacue confessioni e convinzioni religiose per cui ne possiamo fare tranquillamente a meno. State attenti, ragazzi, perché attraverso le farneticazioni di questa pseudoscienza, che per esempio la legge dell'aborto, di cui parleremo ampiamente, è entrata nelle costituzioni degli stati contemporanei, dappertutto. Non vorrei avere le informazioni datate. Fino a qualche tempo fa l'aborto non c'era in Irlanda. Non so se hanno ceduto anche i mitici irlandesi. Unica, eh? Unica in tutti quanti i paesi evoluti. Unica. Allora è ovvio che per far entrare questa legge, che cosa tu devi dire? Chi è questo essere che si trova nel grembo della madre dal primo giorno del concepimento fino al terzo mese? È una persona umana? Se fosse una persona umana ci stanno i codici penali, c'è l'omicidio volontario, l'infanticidio tra l'altro è un aggravante dell'omicidio volontario in tutti i codici penali dei paesi cosiddetti civili, perché che poi siano realmente civili con quello che hanno combinato negli ultimi anni è tutto da dimostrare. Allora si sono inventati la storia che fino al terzo mese questo essere non sarebbe altro, dice qualcuno, qualche grande scienziato che è stato anche autorevole esponente politico e va sempre in giro, un ammasso di cellule. Ma guarda un po', un ammasso di cellule. Sta di fatto che le persone umane non escono fuori se non da questo ammasso di cellule e che chi dice questa cosa, tanto tempo fa o poco tempo fa, a seconda di quanti anni fa, a seconda di quanti anni ha, scusate, è stato questo ammasso di cellule. Come lo vogliamo? E se fosse stato soppresso quell'ammasso di cellule, la persona che farnetica queste cose non le potrebbe farneticare perché non sarebbe venuta al mondo. Per dirvi, no? Ecco. Queste sono delle stupidaggini grosse quanto una casa, perché la scienza ha dimostrato che nello zigote addirittura, questa è scienza. Cioè, nell'ovulo fecondato, cioè dopo l'incontro tra i due gameti che sono dati dal cromosoma sessuale dell'uomo e della donna, già in quella protocellula c'è tutto il patrimonio genetico della persona. Quindi altro che ammasso di cellule. È la scienza stessa che ti fa dare la zappa sui piedi, perché come diceva il buon San Tommaso d'Aquino, la vera scienza, non la pseudoscienza, non può mai essere in contrasto con una verità di fede. Quindi, se un uomo realmente acquisisce una vera conoscenza scientifica, quella conoscenza scientifica sarà certamente compatibile con i dati che ti provengono dalle verità di fede, rettamente intese. Quando non c'è compatibilità, sono due le cose: o la scienza non è scienza, o la fede non è fede. Cioè, c'è una lettura erronea di un dato rivelato. Oppure c'è una lettura tendenziosa di un dato fondato in qualche modo in qualche elemento realmente fisico, naturale, ma l'interpretazione, la lettura che ne viene dato è errata. Come faccio se io penso che lo zigote, in quanto contenente tutto il patrimonio genetico della persona, cioè la persona adulta non avrà nulla da un punto di vista genetico, non ha nulla di diverso da un zigote, nulla. Come faccio io a prendere questi embrioni e cominciarli a manipolare, fecondazioni in vitro, congelamenti, oppure pensare che si possa fare l'estrazione di cellule staminali da questi embrioni, poi accenderemo un pochino a queste cose, a coscienza tranquilla. Qui non si tratta di fare un ricorso alle verità di fede, che comunque in ogni caso combattono e avversano queste cose. Come spesso hanno detto anche i papi, il beato Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, adesso questo nuovo ancora non si pronuncia su questi temi, ovviamente, che è soltanto un mese che è papa, dice Dicevano sempre: attenzione, quando difendiamo la vita, noi non ci appelliamo principalmente a motivazioni di fede, perché se tu fai così, ti azzittano subito, dicono: ah, vabbè, questa è la tua fede confessionale. Per carità, tu sei liberissimo di credere quello che vuoi, ma lo Stato di oggi è uno Stato laico, quindi in Italia ci sono i cattolici, sono anche musulmani, oppure testimoni di Geova, non gli importa nulla di queste cose, e quindi tu non puoi imporre la tua visione allo Stato, ma qui non si tratta di imporre una visione confessionale. Qui si tratta di cose fondate nella natura stessa delle cose, e quindi un occhio che le indaga non con fine distorto, quindi manipolando alcuni dati per andare ad avallare le tue strampalate teorie, necessariamente deve piegarsi all'evidenza del dato scientifico, non a una convinzione di fede confessionale. Ecco, ok? Cioè, io sono Leonardo oggi, ma il Leonardo che sono oggi è identico al Leonardo che c'era, da un punto di vista genetico, 5 secondi dopo che io ero stato concepito. Tra l'altro, qui no, cioè, c'è una verità di fede che ulteriormente avalla questa cosa, una verità di fede non ancora definita come dogma, ma come opinione probabilissima comunque. Cioè che l'infusione dell'anima avvenga all'istante stesso del concepimento, che è la dottrina tenuta. Cioè non c'è nessun, qualcuno dice nessuno, non c'è nessun dogma di fede che obbliga a chiederci, ed è vero, ma è una dottrina più che probabile, per cui dire una cosa diversa da questa sarebbe quantomeno dottrina gravemente temeraria, dire una cosa di questo genere. Poi tra l'altro c'è anche un altro dato, no? C'è anche un altro dato. C'è anche un altro dato. Allora, c'è un articolo del Codice Civile, che è il 462, questo tanto perché ci ricordiamo ogni tanto, cioè, guardate le assurdità che compiono gli uomini pur di far trionfare la menzogna, che pur subordinando all'effettiva nascita del concepito l'acquisto della capacità giuridica, poi adesso vi dico subito cosa significano queste cose, ne riconosce i diritti successori, cioè, attenti. Se io sono sposato con una donna Y e questa donna Y rimane incinta, certa, d'accordo? Se io muoio durante la gravidanza di questa donna e io non ho fatto testamento, e la mia eredità non va soltanto a questa donna, ma va anche al figlio che ha concepito. Vedo che sono le 17 ragazzi, una piccola pausa per l'Ave Maria e poi riprendiamo un attimo questo discorso. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, attenti a quello che vi stavo appena dicendo. Se io muoio mentre mia moglie è incinta, certamente, il concepito, dice il Codice Civile, acquisterà la capacità giuridica e quindi la capacità di succedere nel momento in cui effettivamente viene partorito. D'accordo? Ma i suoi diritti sono tutelati fin dal grembo materno, sotto questo punto di vista. Allora, se c'è un articolo del Codice Civile, quindi dell'ordinamento giuridico, che riconosce in qualche modo una dignità da un punto di vista legale, facendolo, come dire, titolare di diritti, pur sotto la condizione dell'effettiva nascita, quando sta nel grembo della madre. Ma come fai, in un'altra legge, che era sciagurata la legge 194, negare ogni diritto a questo embrione, perfino il diritto ad essere custodito e a venire al mondo? Io dico, ragazzi, poi se qualcuno vuol fare qualche telefonata, cioè queste cose stanno scritte sul codice civile, io mi sono sempre chiesto com'è possibile che a livello legislativo, anche tra i nostri cari e amati politici, anche tra quelli insomma, che si definiscono cristiani, come mai che nessuno abbia mai sollevato questo argomento, che è un argomento forte, perché è fondato anche su ciò che noi viviamo, no? Attenzione, pur dinanzi a tale evidenza di scienza e di ragione, Su quanti specchi sono arrampicati i novelli saccenti e pseudoscienziati? Quante vergognose astuzie neofarisaiche hanno ordito e posto in essere per giustificare contro la ragione? Attenzione, lo ribadiamo, è prima è contro la fede e contro il buon senso. Tutti gli abominevoli diritti che si fanno oggi, aborto, manipolazioni genetiche e in alcuni paesi d'Europa l'eutanasia, stessa cosa. Come faccio io a stabilire quando una vita comincia ad essere vissuta e quando non è comincia a essere vissuta? Voi sapete che alcuni, guardate che grandi scienziati, identificano assolutamente, cioè, la vita umana, quindi la vita umana c'è quando la persona comincia ad essere autocosciente. Autocosciente. Io non vorrei adesso fare sfoggio cioè, cerco sempre di essere molto semplice nel mio linguaggio e di evitare ricorsi insomma, alti contenuti gnoseologici, quindi di chissà quale grande sapere. Però, quando si sente parlare di coscienza, non si può, per una persona che ha studiato, che ha fatto per esempio gli studi superiori classici o scientifici, quindi che conosce un pochino di filosofia, non può non pensare al sistema cartesiano, che praticamente fece la rivoluzione grande di far dipendere l'essere stesso dall'autocoscienza, il cogito ergo sum. Ne parla benissimo il beato Giovanni Paolo II nell'Enciclica Fides et Ratio di questi argomenti, che vi invito, chi può, diciamo, in qualche modo afferrarli, a leggerla. Ma vi rendete conto dell'assurdità? Cioè, l'uomo quando è cosciente, allora quando io dormo, che succede? Quando noi dormiamo, la nostra sfera cosciente è tolta, no? Però per questo che possono dire facciamo l'eutanasia, cioè un malato in uno stato vegetativo non è cosciente, quindi io ho deciso che, persa la coscienza, e quella non è più vita umana. Quando invece abbiamo delle testimonianze assolutamente contrarie, per esempio pensate alla testimonianza di Gloria Polo, io parlo di lei perché purtroppo, no purtroppo, grazie a Dio, ho avuto la grazia non soltanto di leggere il libro, ma di ospitarla anche in parrocchia. Lei ha fatto una testimonianza qui a settembre scorso. Lei dice chiaramente quando stava, come si dice, quando stava in coma, che stavano tutti quanti discutendo, stacchiamo la spina, non stacchiamo la spina, mentre lei stava con mezzo piede dentro un inferno, terrorizzata per la vita che aveva fatto, lei vedeva tutto, sentiva le scemenze e le sciocchezze che dicevano i medici e pur non potendo, come dire, pur non potendo farsi sentire, gridava interiormente: ma no, ma che fate? Ma che siete matti? Ecco. Perché pur non essendo cosciente, quindi non avendo la possibilità di relazionare, lei vedeva tutto. Quindi la coscienza non è semplicemente la possibilità di esprimersi e di parlare. Capite? Allora a questo punto un bambino neonato, dal momento che non capisce niente, che coscienza ha di sé un bambino neonato che mangia, beve e dorme, è capace soltanto di piangere, di cercare il seno della mamma quando c'ha fame? Allora lo possiamo sopprimere tranquillamente, lo possiamo buttare dalla finestra senza che ci sia nessun problema? Cioè, capite ragazzi, cioè, quando noi sentiamo dire queste cose, noi dobbiamo fare sempre attenzione, perché purtroppo, e dobbiamo fare attenzione nel senso di non ricorrere subito all'argomento di fede, perché dobbiamo imparare a ragionare bene. Ecco, e opporre a queste farneticazioni non soltanto gli argomenti di fede giustissimi, la vita umana è sacra e inviolabile perché è dono di Dio, ma anche gli argomenti di ragione, che riducono, che chiudono la bocca, dicono alcuni passi del Nuovo Testamento, all'ignoranza degli stolti. Ecco, per lui si tratta di ignoranza e di stoltezza, cioè di cervello che non ti funziona. E non ti funziona proprio nel campo dove tu pensi che ti funzioni tanto tanto bene, che è quello che è il campo delle cosiddette verità scientifiche, di cui oggi molti si riempiono la bocca, ecco, ma che non sempre a questo riempimento di bocca corrisponde un riempimento di testa, ecco, adeguato. Ora, tutto ciò detto, quindi abbiamo un attimo capito, no? Quindi alcune. Facendo un pochettino una sintesi di questi elementi introduttori. Quindi, si tratta di tutela della vita umana in senso ampio. Il comandamento si formula in termini di non ammazzare, non di non uccidere, quindi esistono delle condizioni rarissime in cui è lecito, ad alcune condizioni, ad alcune togliere la vita umana, non innocente e per giusta e gravissima causa. Lo vedremo nel corso della trattazione. Quindi, perché la vita fisica, lo ripetiamo, è un bene sacro ed inviolabile, ma non assoluto. D'accordo? Terzo, prima di addentrarci in questa cosa, dobbiamo sgombrare il campo ad alcune pseudo-verità scientifiche che vengono fatte passare come tali ed in nome delle quali sono stati giustificati proprio da questi che guai che si fanno gli antesignani, ecco, contro la pena di morte, contro tante altre cose, contro tante altre aberrazioni, eccetera, eccetera. Ecco. Sono state giustificate sulla base di asserti completamente falsi e infondati. Voi pensate a certi, non faccio nome per ragioni di carità, a certe aree politiche che fanno le battaglie contro la pena di morte, che vorrebbero abolire la pena di morte in tutti gli stati, nessuno sta dicendo che non sia una buona battaglia, ma hanno fatto le stesse battaglie per introdurre l'aborto in tutti gli ordinamenti dell'Occidente. Attenzione. Allora, detto questo, passiamo all'interno del comandamento, che fatte queste precisazioni, ovviamente, noi approfondiremo all'interno della dimensione della fede, chiaramente. Allora, noi abbiamo già visto, parlando del primo comandamento e del secondo, che Dio è vita, anzi, Dio è la vita, è l'autore della vita, è il creatore della vita, e da un punto di vista di fede, in quanto Lui è colui che la vita la dà, Lui solo ha il diritto di darla e di toglierla. Come? A chi vuole, come vuole e quando vuole, senza dover rendere conto a nessuno. Cioè, anche il più sciocco essere umano sa dall'esperienza che anche se fosse ateo, d'accordo, che la vita è qualcosa che viene ricevuta senza che ci sia concorso alcuno da parte di colui che ricevuta la ha. Cioè, se io voglio essere ateo, cioè stupido, come dice la Sacra Scrittura, che è lo stupido a dire che Dio non esiste, però non posso certamente negare il fatto che io mi ritrovo a vivere, cioè io ci sono senza averlo chiesto. E il mio essere, se non voglio ammettere nient'altro, dipende integralmente da papà e da mamma che me l'hanno donato. Quindi è qualche cosa che io ho ricevuto da. Quindi, che in un certo senso non mi appartiene perché non ne sono io la causa adeguata. Ecco. Ovviamente le persone intelligenti che aggiungono a questo dato empirico il fatto che l'autore della vita in senso stretto è Dio, perché c'è una parte di noi che viene da Lui direttamente, sempre, anche oggi, che è l'anima, riconoscendo in Lui solo la vita e la fonte della vita, capiscono che egli solo ha il potere di darla e il potere di toglierla. Questo è un dato fondamentale, ragazzi, importantissimo. Cioè, la vita è un bene indisponibile perché la vita con la V maiuscola è Dio. Punto. Noi sappiamo dalla fede questo qui, che il fatto che ci sia un universo, quindi che ci sia un mondo creato e non il nulla, se lo sono chiesti alcuni filosofi, perché c'è l'essere e non il nulla? Da che cosa dipende, ragazzi? Voi pensate che forse Dio era costretto a creare, come ha detto qualche farneticante teologo del secolo scorso, o come pensava un certo filosofo tedesco che ha fatto tanti di quei danni, che Dio solo lo sa, al secolo, George Friedrich Wilhelm Hegel, diceva una frase di questo genere, ad effetto: Dio ha bisogno del mondo per essere Dio. Attenzione a queste cose anche quando le studiate a scuola, ragazzi, che sono frasi suadenti, cioè se non ci fosse un mondo creato su cui Dio esercita il suo dominio e la sua superiorità, Dio non sarebbe neanche Dio, perché su che cosa eserciterebbe la sua suprema autorità? Ci sarebbe soltanto Lui. State attenti a queste cose qui, eh. Invece la fede ci dice che l'atto creativo di Dio è un atto mosso semplicemente dall'amore. E l'amore opera in Dio come causalità totalmente libera, cioè Dio ha creato perché ha voluto creare, non perché doveva creare. Cioè, quando io mi metto davanti a lui, io Leonardo, e dico: ma come mai che ci sono io, Signore mio? Devo dirgli: grazie, Signore, perché mi hai creato. Cioè, Santa Chiara, al termine della sua eroica vita terrena, culminata in oltre circa 30 anni, non mi ricordo se qualche anno in meno o qualche anno in più, distesa a letto, malata, e malata per le troppe penitenze che aveva fatto, perché per questo è che si è malata Santa Chiara, quindi un olocausto di una vita offerta a Dio a sconto dei peccati degli altri e per suo amore, lei sul letto di morte diceva questa parola: Signore, ti ringrazio perché mi hai creata. Perché Dio non era obbligato a creare me. Chi l'ha detto questo qui? Chiedetemelo, ragazzi, voi che mi state ascoltando. Tu adesso mi stai ascoltando perché tu hai ricevuto l'essere. E chi l'ha detto che dovevi starmi ad ascoltare tu? E che non dovevi stare tu adesso nel nulla? Chi l'ha detto questo qui? Capite? Cioè, dobbiamo riscoprire assolutamente tutti quanti noi questo grande stupore. Cioè, la vita l'abbiamo ricevuta. Quindi, avendola ricevuta, l'abbiamo ricevuta, ci dice anche la fede, per una ben determinata missione, ragazzi. Cioè, io, Leonardo, sono nato 40 e qualcosa anni fa, non casualmente. Perché io sono nato oggi, per esempio, e non ai tempi dell'imperatore romano Marco Aurelio, tanto per dirne una. Perché? Voi pensate che sia un caso, ragazzi e ragazze carissimi? Assolutamente no. Cioè, noi siamo nati, il fatto che noi ci siamo, uno, che siamo fatti in un certo modo, due, che ci siamo in un certo momento storico ben preciso, tre, in un certo contesto culturale, dentro una certa famiglia, dentro un certo ambiente, è tutto voluto dal Padre Eterno, è tutto predisposto da Lui. Questi sono dati di fede, a differenza di quelli precedenti, che chiaramente rafforzano le nostre convinzioni. Quindi, che cosa sto a fare io sul pianeta Terra? La fede ci dice che noi siamo sul pianeta Terra per una missione che dobbiamo compiere. Noi non la conosciamo, la scopriremo giorno per giorno. Io ho scoperto giorno per giorno, e credo di non essermi di gran lunga sbagliato, che cosa volesse il Padre Eterno da me, ma non so cosa vorrà domani. Io non lo so come morirò, per esempio. Morirò martire? Non lo so. Morirò a letto mio di vecchiaia? Non lo so. Mi verrà un tumore che mi stenderà a letto per 20 anni? Non lo so. Uscirò domani pomeriggio con la macchina, farò un incidente, mi spacco la spina dorsale e sto tutta la vita sulla sedia a rotelle? Non lo so. Non lo so. Una cosa so, che, e questo ce lo conferma San Paolo, Lettere ai Romani, capitolo 8, versetto, se non ricordo male, 29: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Cioè, se tu vivi in amicizia con Dio, se tu hai una vita interiore, se tu preghi, se ti sforzi di vivere in grazia, e tu puoi stare certo che le cose che ti accadono, anche quelle umanamente parlando non gradevoli, sono disposte, predisposte, ordinate al bene e coordinate dal Padre Eterno. Punto e basta. E tu, la missione che hai da compiere passa anche per tutte queste cose. Comincia quando Dio ha voluto e finirà quando Dio ha voluto, perché anche il termine della vita, cioè se io dovessi, cioè noi per esempio non sappiamo che cosa accade quando una persona sta in stato incosciente. Che cosa ne sappiamo? Se il Padre Eterno lascia una persona 20 anni in stato vegetativo e poi si risveglia, ma chi sono io per impedire al Padre Eterno di fare questo qua? Chi sono io? Se questo è, nei suoi imperscrutabili e misteriosi disegni, suo volere, ma chi sono io per impedirlo? Capite, ragazzi? Chi sono io? Come faccio io a mettere limite alla divina provvidenza? Il buon padre Pio diceva, qui comanda il padrone, si fa quello che dice lui. Ecco. E a volte la sua volontà passa per circostanze, per noi, umanamente parlando, incomprensibili, misteriose. E allora? Non è che siccome una cosa è misteriosa e non la capisco, io posso ergermi, come dire, a manipolatore o a gestore autonomo e indipendente di questa realtà. Assolutamente. Non posso. Ok? Questo, ragazzi, è assolutamente importante, che noi lo teniamo presente sempre. Questi, a differenza di quelli precedenti, vi ripeto, sono dati di fede, ecco, quindi, perché le cose a cui sto facendo adesso riferimento sono chiaramente verità di fede, che però, ripeto, vanno a rafforzare una convinzione che già c'è. Ed in ogni caso, fermo restando queste cose, quindi affermato il principio che lui, cioè Dio solo, è la vita e l'autore della vita, la vita è un bene assolutamente indisponibile. Per cui ogni forma di aggressione arbitraria, d'accordo? Ricordiamo sempre la formulazione del quinto comandamento, di violazione arbitraria e di manipolazione, specialmente della vita umana innocente, è sempre cosa gravissima al suo cospetto. Allora, la prima grave violazione, entriamo subito nel merito del quinto comandamento, avviene attraverso i gravissimi peccati, gravissimi, dell'omicidio e del suicidio, che ne costituiscono ovviamente l'oggetto primario, attraverso i quali un uomo toglie a un suo simile o a se stesso la vita, ovviamente, ripetiamo sempre, senza una giusta e gravissima motivazione. Quali sono queste gravissime motivazioni? Per esempio, la legittima difesa. Queste sono circostanze anche da codice penale, ma sono circostanze che sono valide anche da un punto di vista di codice morale, d'accordo? Certamente che Gesù ha invitato a dare la vita anche per i propri nemici, ma è un invito, non è un obbligo. Un invito vuol dire che se ti mettono a repentaglio la vita e tu vuoi difenderti, puoi difenderti. Se non lo fai e accetti eroicamente che la tua vita, non lo so, ti sia tolta per amore anche di chi è cattivo o di un tuo nemico, ah, va benissimo questo qua. Ma questo è un di più, capite? Non è un obbligo. Cioè, voi dovete, dobbiamo sempre stare attenti, ragazzi e ragazze carissimi, a non confondere mai. Non confondere mai ciò che è facoltativo e consigliato con ciò che è precettivo e obbligatorio. Questo è fondamentale, questo qui, non per sminuire l'importanza di ciò che è facoltativo. Pensate per esempio all'eccellenza e alla grandezza della vita religiosa, per esempio, no? Però la Chiesa ha condannato come eretici, giustamente. E si trova anche nel Nuovo Testamento, nelle lettere di San Paolo, ci cioè sorgeranno falsi maestri che condanneranno il matrimonio. Condannare il matrimonio vuol dire questo, non dire, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, guardate, nell'economia inaugurata da Gesù, quindi, quindi in un'ottica di donazione da dare a lui, chi si sposa fa bene, dice lui, e chi non si sposa fa meglio. Questo è quello che dice lui, che è poi, diciamo, un'espressione un pochino poco raffinata, diciamo così, mi perdonerà l'apostolo, di ciò che la Chiesa insegna circa l'eccellenza della verginità sul matrimonio. Ma un conto è parlare di eccellenza della verginità sul matrimonio, d'accordo? Che poi è un'eccellenza oggettiva. Poi Poi a questa eccellenza oggettiva, perdonatemi, deve corrispondere, qui anche parlo chiaramente con tutti quanti consacrati, tutte le suore che ci ascoltano, deve corrispondere un'eccellenza soggettiva, cioè la tua vita deve essere una vita santa, perché se no l'eccellenza oggettiva, come diceva mia nonna, te la fai arrosto, te la fai, no? Perché capite subito tutti, no? Però un conto è dire questo, un conto è dire chi si sposa fa peccato mortale. Così, un conto è dire se una persona rinuncia alla legittima difesa e dà la vita per i nemici, è un martire, è un eroe. Un conto è dire se uno si difende entro i limiti consentiti, però non escluso che in alcune circostanze possa anche, vita contro vita, quindi difendersi in questo modo, va all'inferno. Questo è falso, questo qui. Oppure l'altra giusta causa che peraltro non trova, cioè. Non trova neanche questa scappatoia, è per esempio l'esercizio corretto delle funzioni di pubblica sicurezza o dell'attività militare. Cioè, se uno fa parte delle forze dell'ordine e si trova in circostanze in cui è necessario ricorrere, come dire, all'uso della forza, anche al rischio di mettere a repentaglio la vita del prossimo, guai a lui se non lo fa. Perché se non lo fa, fa peccato grave di omissione, perché lui è tenuto a fare queste cose, non so se è tenuto a farle in virtù del suo stesso ufficio, di chi gli ha dato l'uso della forza pubblica a tutela del bene del prossimo. Quindi cioè, non potrebbe, cioè, il titolare come dire, un agente di pubblica sicurezza dire: no, no, no, io adesso questo adesso non sparo perché amo i nemici. Giusto? E quindi lascio perdere. Come lasci perdere? Ama i nemici tuoi, quelli personali, non in questo senso, no? Perché capite che ci si vanno a fare un sacco di sciocchezze con questo tipo di discorso, no? Quindi attenzione a questi puntini. Stesso discorso vale per l'attività militare, cioè se uno fa il militare e si trova all'interno di una guerra che va sempre evitata ordinatamente, poi ci arriveremo a parlare di queste cose qui, no? Però supponessero all'interno di una guerra cosiddetta giusta, come ha insegnato la dottrina cattolica, tu che fai? Vogliamo mandare all'inferno tutti quelli che allora sparano in queste. All'interno di questa logica, tutti all'inferno? Voi capite che diventa un pochettino delicata la questione, no? Quindi teniamo presenti questi criteri. E detto questo, per quanto riguarda il suicidio. Allora, non esistono delle giuste cause di suicidio, numero uno. Però, e questo è secondo la dottrina comune, esistono delle circostanze che possono diminuire agli occhi di Dio la responsabilità morale del suicida. Attenzione, diminuirne la responsabilità morale, ferma restando però l'intrinseca e irreversibile peccaminosità dell'atto. Cioè, da un punto di vista oggettivo, il suicidio è sempre e comunque un atto gravemente contrario alla legge di Dio. E a differenza dell'omicidio in forza di virtù del quale esistono delle circostanze scusanti, per quanto riguarda il suicidio, circostanze scusanti non esistono, esistono circostanze attenuanti. D'accordo? Cioè, circostanza attenuante significa tu potresti aver fatto questo gesto in un momento di estrema disperazione, non so perché pressato dai debitori o da tante altre cose, in maniera tale che, fermo restando la cattiveria dell'atto, la responsabilità dinanzi a Dio che soltanto giudica il cuore delle persone può essere diminuita. Attenzione a questo, cioè il motivo per cui fino a qualche tempo fa, penso che lo sappiate, la Chiesa proibiva la celebrazione delle esequie del suicida, cioè, se uno moriva suicida, non c'era il funerale, non c'erano santi, Perché? Per questo motivo non si trattava di fare un giudizio sulla persona, mi viene un nervoso anche oggi quando sento dire alcune cose. Qui non si tratta di giudicare la persona, qui si tratta di dire che questo comportamento è male. Se tu scegli di porre in essere questo comandamento, perdi il diritto alle esequie. Poi, se il Signore, nella sua misericordia, conoscendo le tue circostanze e le circostanze soggettive, non ti condanna, e quindi queste sono cose, è un altro discorso. Quindi non voglio dire, cioè, allora, quindi, ed è anche il motivo per cui oggi però la Chiesa, come dire, guardando le cose dall'altro punto di vista, consente il funerale di un suicida quando non sia evidente però che ha agito con piena lucidità. Vi ricordate il caso Welby? Con il caso Welby nel 2006, io non so quanti degli ascoltatori se lo ricordano, fu praticata l'eutanasia con il suo pieno e deliberato consenso. Tanto è vero che, meno male, furono rifiutate le esequie ecclesiastiche in questo caso. Perché è diverso il gesto disperato di un povero disgraziato che, specialmente oggi, immaginate con tutta la situazione grave che c'è oggi, non lo so, avete visto qualche giorno fa un fatto di cronaca, un poveraccio che stava pieno di debiti, non sapeva più come fare, non sapeva più come sta pressare le tasse, in un momento di disperazione si è sparato. Certamente ha fatto una cosa gravissima, d'accordo? Cercate di capire bene quello che dico, però questo gesto, non dico che è giustificabile, però capite che è motivato da una fortissima pressione, che questo non è che se l'è andata a cercare, non è che l'ha premeditata con nuda lucidità, capite? È diverso. Quindi, però, vi ripeto, questo è il motivo anche per cui adesso sono consentiti, però, cioè, con il fatto che se consta che non dipende da motivazioni incontrovertibilmente contrari alla fede, io posso celebrare il funerale. Allora oggi si celebrano tranquillamente i funerali dei suicidi e non fa niente che uno si suicida, perché oggi qui va sempre a finire così, ragazzi carissimi. Questa è assolutamente una cosa completamente assurda, questa qui, no? Cioè, dall'eccezione si passa automaticamente alla regola, cioè. La Chiesa oggi non rifiuta a priori le esequie di un suicida, e quindi oggi si possono tranquillamente celebrare tutte le esequie. Insomma, una cosa analoga è successa, ahimè, con le esequie di chi sceglie di farsi cremare. Anche qui, secondo l'antica disciplina, se tu scegli la cremazione, dai, non te li faccio, perché la cremazione originariamente, e oggi sono in tanti che continuano a farla per questo motivo, era semplicemente una scelta, come dire, a sfregio e in polemica con il dogma cattolico della risurrezione della carne. Quindi tu fai questa scelta, padronissimo di farla, ma poi non venimmi a dire che ti faccio funerare in chiesa. Anche oggi, dice, la Chiesa dice, siccome possono esserci delle motivazioni per cui uno opta per questa scelta non contraria alla fede, il funerale non è proibito a priori, ma non vuol dire che allora se uno si fa cremare non fa niente, tanto ormai la Chiesa oggi lo consente. Cioè, si passa sempre dall'eccezione alla regola. Ecco, e questo non sempre è corretto. Quindi teniamo presente, dobbiamo mettere punto perché vedo che il tempo sta per scadere, che per quanto riguarda il suicidio, ci possono essere delle circostanze che Dio solo conosce, che ne diminuiscono davanti a Lui la responsabilità, che fanno presumere uno stato di disperazione o comunque di gravissima instabilità, disagio psico-emotivo della persona, e quindi, come dire, pensare che questo non sia fatto in spregio della morale cattolica, ma quando questo consta con evidenza, come nel caso che vi ho citato prima, è evidente che la persona è, almeno da un punto di vista oggettivo, colpevole di peccato mortale, e quindi in un caso di quello la Chiesa non soltanto può, ma deve, rifiutare la celebrazione delle esequie cattoliche, onde non ingenerare, insomma, scandalo e confusione nei cuori dei fedeli. Ci fermiamo qui per oggi, ci aggiorniamo se volete alla settimana prossima. Io come sempre vi saluto a tutti e con il saluto tipicamente nostro, Ave Maria.